Questa volta abbiamo anche uno strumento tecnico, lo schema della relazione di Rizzi è depositata in un foglio. Allora lo ringraziamo anche per questo, perché ci aiuta ad essere svegli con l'occhio. Dunque, il nostro grazie a Dalmido Rizzi è perché non fa, penso, lo storico della teologia soltanto, ma si sporca le mani facendolo il teologo. Libertà cristiana fra totalitarismo. Ah, un'altra? Ah, hai cambiato, allora ha cambiato Esodo e teologia politica. Ma mi scuso con lui perché io credevo che lo schema fosse quello finale. Ah, su, va bene. Allora sentiamo il teologo. Sono io che devo scusarmi di avere cambiato le carte in tavola, cioè di non essermi attenuto a quel tema, a quel titolo che avevo telefonicamente concordato con Nicoletti. Posso addurre a mia giustificazione che non pensavo che le carte fossero già in tavola, non avendo poi io ricevuto il dossier, no? Il foglio di programma. Dossier, sì, ma il foglio col programma, non l'ho ricevuto. Per cui pensavo che quel titolo fosse rimasto, ecco, diciamo una carta in pectore o al più tra le fila del telefono, e che quindi cambiarlo non comportasse niente. Chiedo scusa di questo, e comunque oramai andiamo con l'esodo e la teologia politica. E sono anche contento perché, come diceva Aurora Sartori, è giusto, io faccio il teologo, cioè di quelli che credono di poter dire quello che Dio pensa. Acerbi, ci riconoscerai almeno un merito, che senza teologi non ci sarebbero gli storici della teologia, e quindi tu saresti disoccupato, al di là di ogni considerazione. Perché parlare dell'esodo a proposito di teologia politica? Beh, intanto c'è indubbiamente un risveglio di interesse attorno a questo tema negli ultimi anni. Ricordo soltanto due piccoli fatti letterari, editoriali. Un paio d'anni fa la rivista Concilium ha dedicato un numero appunto all'esodo, l'esodo come paradigma permanente, una silloge, una raccolta delle reinterpretazioni dell'esodo nella tradizione occidentale. È una raccolta un po', ecco, a senso unico, perché mancano interamente, ad esempio, tutte le reinterpretazioni iniziatiche cristiane dell'esodo, esodo battesimo, oppure quelle poi della teologia spirituale monastica, esodo cammino dell'anima. Vabbè. Questo però credo sia significativo, no? Le interpretazioni dell'esodo nella tradizione occidentale vengono ricondotte, direi interamente, a interpretazioni di tipo politico, nel senso lato del termine, che sarà però quello che, come vedremo, appunto, la lettura dell'esodo giustifica. Un'altra piccola impresa editoriale è il libretto di Michael Walzer, Esodo e rivoluzione. Michael Walzer è un filosofo della politica nord-statunitense, e questo libretto, tradotto in Italia da Feltrinelli, è un'interpretazione politica proprio dell'esodo, del racconto dell'esodo. Oltre a queste ragioni già così più esterne, ce n'è una anche più, non dico personale, ma così quasi, ecco. Ed è che da 2 anni, con un gruppo di amici che il martedì sera si raccoglie a casa mia per una lettura, una lezione continuata della Bibbia da diversi anni, ecco, negli ultimi 2 anni noi abbiamo affrontato appunto l'esodo, non solo il libro Esodo, no, ma tutta la vicenda narrata. E per il primo anno. Nel secondo anno invece abbiamo passato in rassegna appunto le riletture dell'esodo, da quella ebraica a quella cristiana patristica, eccetera, fino alla teologia della liberazione. E stiamo ora facendo un po' i conti finali, ecco, cioè riprendendo l'insieme per una ermeneutica, io lo chiamo così, adesso non voglio entrare nel cosa vuol dire ermeneutica, ma insomma prendiamolo come, io lo intendo nel senso ancora credo più elementare, cioè lo sforzo complessivo di capire soprattutto dei testi ricchi di senso o di significato. Ecco, allora mi è parso che davvero questo riprendere in mano l'Esodo abbia qualcosa da dire per una teologia politica, dove il fatto che uno sia sostantivo e l'altro aggettivo non faccia sì che tutto il peso cada sull'aggettivo, come ho un po' l'impressione che avvenga anche in teologie politiche di buona fama. Allora noi faremo rapidissimamente, a modo di indice ragionato, una lettura dell'Esodo, una lettura che cerca di essere un'articolazione discorsiva della narrazione dell'Esodo. La teologia come atto secondo, cioè riflessivo, all'interno di quell'atto primo che è il racconto e la tessitura simbolica che costituisce il racconto. Al tempo stesso quindi lavoreremo sul racconto, non dico sui fatti storici dell'Esodo, ma su quei fatti in quanto narrati, e quindi certamente già teologizzati, ma queste sono cose che voi certamente sapete, quindi sulle quali non è il caso di sostare. No? Lavoreremo quindi sul racconto, sul testo, e però anche terremo presente, o almeno ecco, farò fugace qui alla storia degli effetti del testo, cioè appunto alle riletture e alle riletture efficaci del testo avuto, non tanto in questo o quell'autore, tipo Bloch, che legge l'Esodo, quindi non alle riletture tra le pagine dei libri o sulle cattedre, eccetera, ma a quelle riletture che hanno dato avvio a movimenti sociali. Dunque, una prima parte della mia conversazione tenta appunto di ritrovare nella narrazione dell'Esodo l'emergere e il costituirsi dell'orizzonte teologico-politico, cioè di un certo modo di intendere non tanto la teologia quanto il teologale che ingloba in sé il farsi della polis e viceversa di un certo modo di intendere la polis, la consociazione umana che è essenzialmente attraversato dal momento teologale. La narrazione dell'Esodo si scandisce in quattro momenti. Ci sono quattro grandi simboli anche, che possono anche essere trattati indipendentemente l'uno dall'altro e possono anche avere altri significati. Il deserto può voler dire tante cose, nella tradizione monastica certamente ha voluto dire cose che non erano esattamente quelle che sono invece intese nel racconto esotico. Dunque noi abbiamo i simboli che interpretiamo e articoliamo discorsivamente proprio in quanto si concatenano l'uno all'altro dentro e quindi si illuminano nella loro capacità di significare l'un l'altro dentro la connessione che costituisce la narrazione dell'Esodo. I simboli sono allora il primo, l'Esodo in senso stretto, l'uscita dall'Egitto. Secondo, ecco, il lungo cammino attraverso il deserto. Il terzo è la salita del Sinai, del monte, per accogliervi, per stipulare l'alleanza con Dio nella forma di legge, quindi accogliere le tavole della legge. E quarto, finalmente, l'approdo alla terra promessa. L'uscita dall'Egitto. È quello a cui normalmente si fa più attenzione oggi e che tuttavia disarticolato dal resto credo rischia facilmente viene viene falsato o almeno depauperato. Ad ogni modo ha certamente un carattere fondante. L'uscita dall'Egitto abbraccia nel racconto, proprio stavolta del libro dell'Esodo, i primi 14 capitoli e parte del 15, cioè fino a un passaggio del Mar Rosso e al canto di ringraziamento. Qui il protagonista è Dio e il suo rappresentante, il condottiero, Mosè. Direi che la soggettività degli israeliti, degli ebrei, non entra in questione. Gli ebrei vengono condotti fuori dall'Egitto. Tu che ci hai tratti fuori dall'Egitto. Le stesse formule sono sempre al passivo, in quanto hanno come soggetto o noi che siamo stati tratti fuori dall'Egitto. Israele che esce dall'Egitto è oggetto del verbo di cui Dio è soggetto, oppure è soggetto passivo. Effettivamente, ecco, in questi primi capitoli si dipana attraverso tutta una serie, certo, di contraccolpi, dei vari colloqui tra Mosè e il faraone, prima ancora il grido degli ebrei, Dio che risponde al grido, Dio che si rivela a Mosè, Mosè che va e tratta col faraone, il faraone che si nega a lasciare partire gli ebrei, Dio che manda le piaghe, eccetera. Ma quello che si viene profilando e che costituisce il vero motivo guida di tutta questa prima figura e tappa è l'autorivelazione di Dio. Quell'autorivelazione che starà da allora in poi alla base di tutta la religione e la politica, la religione di Israele. L'autorivelazione di Dio in che modo? Ecco, ho scelto la formula Dio di schiavi perché mi sembra quella che complessivamente forse si cerca di rende meglio, in genere le formule sono quel che sono, no? E la magizzazione delle formule, delle etimologie, mi sembra una cosa di cattivo gusto. Ecco. Scelta questa, ma si può benissimo essere sostituita con un altro, Dio di oppressi, eccetera. Perché ho scelto Dio di schiavi? Ecco, perché mi pare che la forza di questa nuova no? rivelazione del divino che accade nell'Esodo sta proprio nel presentare Dio come, ecco, Dio, un Dio che si identifica con coloro che sono privi di identità. Ho scelto, ripeto, il termine schiavi come quello che forse meglio rispecchia questo, il non identificato, il non provvisto di identità. Lo schiavo è l'identità negata perché non solo perché sta male, perché ha condizioni di vita, di esistenza dura, le corvette a cui gli ebrei sono sottomessi, i lavori forzati, ma più ancora perché, ecco, questa, diremo, sono espropriati di ogni progetto di vita, appartengono a un progetto che è quello di una collettività e del suo rappresentante, il faraone, che non era loro. Sono espropriati di ogni fine autonomo. Non solo, ecco, espropriati, dice le due cose, che quindi loro non possono identificarsi con questo fine, che al tempo stesso sono sottomessi al fine, a un fine posto da altri, e sono totalmente identificati in questo fine posto da altri. Identità negata, ecco, identità alienata. Allora, quando Dio prende partito quando Yahweh prende partito per questa minoranza consistente, o forse anche maggioranza dal punto di vista strettamente numerico, o col rischio da parte degli egiziani che diventasse tale, quando Dio prende partito per essi, ecco, a mio avviso non basta dire, come si fa abbastanza abitualmente, ecco, che Dio non è il Dio del potere, certo, ma bisogna andare a capire che quel potere è, ecco, non è il potere di cui abbiamo sentito parlare in questi due giorni, non è l'accezione moderna di potere, No, è il potere in quanto espressione della unità, il potere in quell'accezione forte secondo cui esso esprime e personifica l'unità, diciamo, del corpo sociale, ma intendendo corpo in un senso forte, no? Dell'organismo sociale, al punto tale che, ecco, qui l'accento non è messo, non è contro il faraone, a differenza degli egiziani, degli altri egiziani, ma è un faraone in quanto è l'espressione degli egiziani. Allora che poi il faraone venga colpito nei primogeniti degli egiziani, ecco, non può far meraviglia, proprio perché qui la polarizzazione non è faraone ebrei, ma è Egitto ebrei. Dio prende partito, Dio, per coloro che non hanno identità. E allora, ecco, come primo passo, no, abbiamo una rivelazione del divino che, a differenza di tutte le rivelazioni del divino nell'area culturale, ma poi sappiamo che questo vale anche ampiamente in altre aree e che credo sia una tipologia pressoché universale, a differenza dunque del divino che intanto si identifica nel potere, in quanto prima ancora si identifica nella, cioè, l'espressione della unità di senso di natura-cultura, cioè dell'unità di senso del corpo sociale con le sue tradizioni, con i suoi miti, che a loro volta rispecchiano il rapporto tra questo corpo sociale e lo spazio culturale, l'habitat di cui esso vive, da cui trae alimento e protezione. Allora, ecco, il divino non è più questa cosa. Yahweh è un divino che non è l'Egitto, che non si identifica con l'Egitto, così come non si identifica con Canaan, con Ur, eccetera. Ma, ecco, questo divino che non si identifica a livello culturale e naturale-culturale, questo divino si identifica con il non dotato di identità. Ma non si identifica con il non dotato di identità allo stesso modo in cui gli dei dell'Egitto, eccetera, si identificavano con i non, cioè per dargli uno stesso tipo di identità. Se no avremmo semplicemente un ulteriore, no, l'emergenza di un novum numerico, ma dello stesso tipo di prima. Avremmo accanto all'Egitto, accanto ai popoli di Canaan, eccetera, Israele, che è uno di questi. Non è questo il senso del racconto. Il senso del racconto è che, o se vogliamo, il racconto è suscettibile anche di questa interpretazione ed è una delle linee, ecco, delle linee di tensione più forte, poi di tutto l'Antico Testamento, un modo di intendersi come il popolo amato e poi il popolo eletto, come vedremo subito, in, con quella maniera così esclusiva come l'Egitto stava al proprio o alle proprie divinità e via dicendo. Con la differenza però, ecco, che il Dio che ha amato e eletto noi l'Israele, è il Dio del mondo. Ma la modalità di identificazione sarebbe la stessa. Bene, questa è una possibile lettura dell'Esodo, ma credo sia anche una delle ecco, dei problemi della autodefinizione di Israele, il problema credo fondamentale dell'autodefinizione di Israele. Io seguo un'altra linea, che pure è testimoniata nell'Antico Testamento, un'altra linea di lettura dell'Esodo, ed è quella secondo cui Dio si identifica con questi schiavi, dove a cambiare però è il tipo stesso di identificazione. Dio si identifica con questi schiavi non facendoli diventare un popolo come gli altri, di cui egli sarà un Dio come gli altri, con lo stesso rapporto appunto di identità. Ma si identifica di quell'altra identità che, non dico mantiene, ma costituisce l'alterità. Allora di quell'altra identità che, per non farla lunga, sappiamo si chiama amore, ma purtroppo questo sappiamo si chiama amore ci frega, perché presuppone che noi sappiamo già che cos'è l'amore e inseriamo dentro questa casella il rapporto Dio-Israele-schiavo. E invece quello che cercherei di dire è proprio, no, che qui emerge il novum di una identità, come dire, di una identità radicale tra il divino, ma questo Dio, Yahweh, e il popolo con cui egli si identifica, di un'identità radicale che mette i due in quella alterità che chiamiamo amore, che si chiama amore. Dunque potremmo dire, beh, prima di allora non esisteva l'amore, non esisteva questo amore, esisteva certo, ama il prossimo tuo in quanto è il prossimo tuo, in quanto è membro dello stesso corpo sociale. Questo amore, che è amore all'altro, in quanto altro, si rivela qui. Allora questa dualità, dove Dio è essenzialmente, no, quindi non è un Dio di cui già si sapeva che aveva fatto il cielo e la terra, eccetera, non se ne sapeva nulla, queste cose si sapranno dopo. È un Dio la cui prima definizione, quindi la cui autorivelazione è l'essere, è essere identificato per identificazione di amore con il senza identità. E dall'altra parte allora il senza identità acquisisce questa strana identità che lo concerne anzitutto e non come identificato a un tutto, ma come l'essere il termine dell'amore divino, l'oggetto omesso tra parentesi dell'amore divino. Ecco, quello che mi preme far notare, perché poi tutto il resto dipende da questo e su tutto il resto allora si può andare molto più in fretta, è che qui abbiamo a che fare davvero con, credo, con il novum, con quel novum che poi si resterà, verrà chiamato e benché tradito, ma d'altronde questo fa parte della storia di peccato, no? Non verrà più cancellato, quel novum che in termini storico-culturali appunto è la tradizione ebraico-cristiana, in termini storico-culturali. Ma che in termini, vedremo dopo, in termini ontologici è lo svelarsi del fondamento, come questo, ho preso loro il termine dilezione, un tentativo di dire, ecco, guardate che intendo l'amore, ma quello lì. Ecco, la dilezione come la nuova definizione dell'essere. Dove dunque dilezione è essenzialmente ciò che accade tra questo divino che appare come scelta, come volontà di portar fuori da quel luogo che, dove non c'è identificazione per costoro, volontà di portarli fuori di lì e poi di avviarli verso un'identificazione che resta da vedere. Ma allora c'è una prima identificazione dei senza identità, che è questa, direi, la nuda, o il significato immanente nella nuda fattualità, starei per dire, nel nudo evento di essere amati da Yahweh. Questo mi sembra il senso fondamentale della prima tappa. Della prima figura. La seconda figura, la marcia nel deserto, come si collega alla prima? Ecco, anche qui naturalmente bisognerebbe avere alle spalle poi la lettura dei vari capitoli del racconto, dei vari episodi del racconto, quindi voi fatemi fede, ecco, datemi fede nel fatto di non violentare il racconto. Dunque la seconda figura, dal cammino nel deserto, mi sembra trovi la sua unità in questo, nell'emergere della soggettività di coloro che fino allora erano stati appunto oggetto dell'amore di Dio e per così dire quasi trascinati fuori, colui che ci ha tratti fuori dall'Egitto o condotti fuori dall'Egitto, ma dove l'attore, il protagonista, il personaggio principale, il protagonista era lui, ecco. E ora protagonisti diventano anche loro, anzi direi propriamente diventano loro. La storia del deserto è tutta la storia delle alternanze, dell'altalena tra accettazione e rifiuto. Le famose mormorazioni di Israele nel deserto, il rimpianto delle cipolle d'Egitto, il dubbio, il sospetto, la filosofia del sospetto, che è già presentissima nella Bibbia, pensiamo al serpente o pensiamo appunto agli ebrei nel deserto, ci ha condotti qui per farci morire, allora era meglio restare nell'Egitto. Meglio rossi che morti, cioè meglio, no, guarda, meglio sotto gli egiziani che morti, no, di fame, di, il senso delle cipolle. Allora è Israele che emerge come soggettività, ma ed è messo di fronte a questa scelta fondamentale, se accettare o rifiutare quella identità di cui si trova, ecco, investito, l'identità di essere fatto oggetto. Della dilezione di, se vogliamo, ecco un esempio, un episodio esemplare, ma che ne riassume diversi altri, di questa ecco, identificazione attraverso nell'alterità o di questo accettare di essere oggetto d'amore, cioè che vuol dire accettare allora di vivere di un qualche cosa che non ho nelle mani, di un qualche cosa di cui posso star sicuro perché appunto sono amato, ma di una sicurezza che non posso mai prendere in mano, di una sicurezza che non è quella naturale, culturale, eccetera, di una sicurezza che non è quella garantita dal potere, che non è quindi neppure quella della saggezza dei faraoni, che certamente erano dei governatori saggi, che sapevano prevedere le epoche di carestia e riempire i granai nelle epoche di, in modo che il popolo avesse da sfamarsi, da soddisfare il bisogno anche nei momenti di carestia. Ecco, allora la manna è questa, questo pane, è questo cibo, è questo soddisfacimento del bisogno elementare che giorno dopo viene dato, giorno dopo giorno, in maniera tale che non posso disporne per il giorno seguente. E che mi fa sentire appunto che io esisto soltanto, ecco, in forza di questo altro, che proprio in quanto altro è, è il mio principio di identità. C'è una giustificazione extra nos, ci sarà, no? La storia paolina e poi e qui direi proprio c'è un vivere extra nos. Israele ha scoperto il vivere extra nos e il senso, cioè il vivere di qualcosa che non sono io. Ed è questa l'accezione fondamentale della fede, nella, mi pare poi in tutta la Bibbia. Bene, questa figura si ritrova poi, questa figura cioè di una allora, assimilazione soggettiva, adesso vediamola nell'aspetto positivo, ecco, è quando accogliendo di essere amato, accogliendo di essere l'oggetto della dilezione, io accetto di vivere di questo, e quindi accetto di vivere dell'esistenza come dono. Allora questa figura si ritrova poi individualizzata, ecco, soprattutto negli oranti dei salmi, negli oranti che si lamentano, ecco, con Dio che sembra dimenticarli, o degli oranti che ringraziano e lodano Dio, salmi di lamentazione, salmi di azione di grazie, di lode, ringraziano e lodano Dio perché si è ricordato. Poi questo motivo, ecco, la ripresa di questo motivo, questo motivo che però, ripeto, è la appropriazione soggettiva del motivo anteriore, che resta quello fondante, la ripresa di questo motivo mi sembra poi, nella storia delle riletture dell'Esodo, mi sembra chiara, proprio fatta con una capacità di immedesimazione, che non ha bisogno di teologia come atto secondo, soprattutto negli schiavi negri, i canti spirituali negri che si rifanno in molti casi proprio all'Esodo, al Giordano, all'Egitto, alla terra promessa, no? Al fiume da superare, al faraone lasciali partire, eccetera. Ecco, i canti spirituali negri direi sono l'attestazione di questa identificazione preriflessa che lo schiavo fa con il Dio che di fatto gli arriva come il Dio del suo padrone. E qui certo c'è un elemento nuovo storicamente rispetto alla rispetto alla situazione originaria, perché lo schiavo negro conosce Yahweh come il Dio del suo padrone, il Dio del cristiano. Eppure c'è una potenza tale nel testo che, senza avere, ripeto, teologi alle spalle, gli schiavi negri si riconoscono nel senso che si trovano riconosciuti da quel Dio, il Dio che di fatto è dei padroni, è di diritto il Dio nostro, perché è il Dio che si è identificato con i senza identità, e noi oggi siamo questo. Lo stesso si ripete qui, però, con la mediazione del lavoro teologico nei poveri oggi, soprattutto dell'America Latina, e in quella non è un'endia di no, in quella dualità di predicati, di attributi con cui il popolo viene definito, il popolo dell'America Latina, per Gustavo Gutierrez, ci sono proprio due momenti: pueblo opprimido o pueblo esplotato, sfruttato, è la situazione oggettiva. Ma quando questo pueblo opprimido si vede, si coglie come il popolo su cui si è chinata la dilezione, popolo è il popolo creente proprio perché accetta di vivere alla luce, alimentato da questa direzione. Ma terzo, Israele cammina lungo il deserto, ma prima di arrivare alla terra promessa, ora ci aspetteremmo che alla fine della terra promessa alla fine del deserto c'è la terra promessa, assolutamente no, c'è di mezzo la montagna, e la montagna è davvero il punto culminante rispetto al quale la stessa terra promessa appunto è il ritorno a valle. Che cos'è la montagna? La montagna è il luogo dove Dio dona la legge, ed è proprio attraverso la legge che Israele trova la sua suprema identificazione, o la sua compiuta identificazione, rispetto alla quale la identificazione, diciamo così, passiva di accettarsi amato e di vivere dell'esistenza come dono era solo una preparazione. Il comandamento, la legge o il comandamento, si identifica con quello che abitualmente noi chiamiamo l'amore al prossimo, una formula ambigua certamente, amore al prossimo. Che cosa vuol dire? Vuol dire, e anche qui i testi da portare diciamo in appoggio a questa interpretazione sarebbero molti, vuol dire che la legge diventa la proposta, a fare di quell'amore di cui mi sono riconosciuto e accettato terminale, destinatario, a fare di quell'amore il principio mio attivo, no? Cioè a farmi soggetto, non più oggetto, portatore e non più terminale solo, no? Portatore verso chi? Verso l'altro, verso gli altri certamente, ma verso gli altri che, in quanto diventano oggetto di questa dilezione che passa attraverso di me, diciamo così, essi stessi diventano l'altro. Allora, qui c'è un gioco che mi piacerebbe poter commentare a lungo, no? Così, ma che, allora ecco, il diletto viene eletto per servire i diletti. Cioè, se volete ve lo traduco in un altro gioco di parole. Nel racconto della Genesi, a un certo punto c'è come la discriminazione tra colui che diventerà il popolo eletto, ed è Isacco, figlio di Abramo, figlio della sposa, no? E invece Ismaele, figlio della schiava, che viene poi allontanato e non diventerà il popolo eletto. Però ecco, c'è un episodio che, oltre che delizioso come racconto, è una delle testimonianze più belle della dilezione, di Dio come dilezione. ed è quando la madre di Isacco, esaurite le scorte che aveva con sé, e non avendo altro da mangiare né da bere al bambino, e sentendolo piangere e non sopportandolo, lo lascia e si allontana. E Dio gli appare e dice: no, vai, e le mostra una fonte, dice: dai da bere al tuo bambino, perché diventerà un popolo forte, eccetera. Popolo forte, non il popolo emerito. Ora, certo, qui abbiamo, no, che il Dio che ha diletto Israele, però non chiude questa dilezione solo su Israele. Dio ama anche Ismaele, che pure non sarà l'eletto. Ma dall'altra parte, perché, a che cosa Dio chiama l'Israele, l'eletto? A che cosa lo chiama? A che cosa lo elegge, lo sceglie? Ecco, a farsi per gli altri ciò che egli, Dio, è stato per lui Israele, ma anche per Ismaele. Lo scopo per cui Israele viene chiamato è quello di servire gli Ismaele lungo la storia. Questo mi sembra il senso della legge, della Torah. La Torah però ha anche un'altra, se vogliamo, un'altra sottofigura che è di grande interesse per il discorso sulla politica, ed è che ascolta Israele. Israele è ad modum unius, il corpo sociale, e qui i biblisti a sottolineare da qualche decennio che, contro la nostra concezione individualistica, invece Israele è una personalità corporativa, come se questo fosse l'effetto proprio della chiamata. Assolutamente no. La personalità corporativa non è l'effetto della chiamata, è direi il prezzo che Israele paga alla cultura del tempo, dove ogni popolo è personalità corporativa, dove la identificazione che Yahweh dà e che fa di questo pugno di uomini un popolo, non è però quella di farne un corpo sociale nel senso organicistico del termine, uguale in sintonia con, secondo il modello, appunto, dell'area e anche fuori l'area. No, è invece quella di farne una assemblea di chiamati, non un chiamato, ma un'assemblea di individualmente chiamati. Qui ho messo tra parentesi la bellissima intuizione, no, o meglio formulazione, ecco, che danno alcuni commenti rabbinici a questo passo, lì dove dicono: ma quante alleanze ha fatto Dio in quel giorno? Una. No, ne ha fatte 603.000 e rotti, ecco, non ricordo i rotti, no? 103.000 e rotti. Cioè ne ha fatti tanti quanti erano, secondo la leggenda, gli ebrei nel deserto. Dio fa alleanza con ognuno. Dio fa alleanza con ognuno. Perché? Perché il tipo di alleanza è tale che esclude sia l'identificazione, siamo unum, l'identificazione tra Dio e il chiamato, sia l'identificazione dei chiamati, cioè l'essere parte del tutto chiamato. Il tutto chiamato è ogni individuo. Così che ogni individuo si raccorda all'altro con quello stesso tipo di identità, di dilezione con cui Dio si raccorda a lui. Ogni individuo, ecco, è chiamato a realizzare questo qualcosa, allora, che non è appunto l'organismo sociale, che non è d'altra parte evidentemente neanche, vediamo un po', mettiamoci assieme e fissiamo delle regole del gioco, ecco, che è un terzo, una società dove il gluten sia la dilezione, cioè sia siamo unum, ma di quella unità che è l'unità di altri, ognuno dall'altro, e che è ovviamente reciprocità, perché ognuno è l'eletto a fare dell'altro il suo diletto, ma viceversa. Qualche cosa di questo mi sembra, ecco, fosse presente, e anche qui si potrebbero portare dei testi, ecco, soprattutto nell'ideale, nell'utopia della città sulla collina, soprattutto da parte dei puritani, che vanno, ed è, sarebbe interessante seguire poi il processo di secolarizzazione, no? di questo, attraverso quella linea di secolarizzazione del mondo anglosassone, non quella del mondo europeo, ma lasciamo stare. E finalmente, ecco, si arriva alla terra promessa. La terra, certamente, no? Ma ecco, allora dice, questa terra come si arriva, da dove si era partiti? In fondo si è lasciata una terra, si arriva un'altra terra, ma questa è la nostra. No, no, non è che si arriva a questa nostra, perché Abramo era partito da una terra che era sua. Ecco, e viene mandato in un'altra terra. E il proprium di questa terra è che è terra di arrivo, non di partenza. La terra di partenza è quella dove uno mette le radici in forza della nascita, è di nuovo l'identità naturale e culturale. E invece l'orizzonte biblico si instaura rompendo questa identità, come ci hanno insegnato alcuni teologi della secolarizzazione, i quali però poi si sono dimenticati di dire che il positivo di questa rottura di identità, ecco, non è dominate la terra. Invece loro hanno detto che è. Non è dominate la terra, ma è che questa terra che io vi do e che è la, resta la mia terra, e voi restate ospiti in questa terra, e su questa terra voi dovete, anche se, ecco, se nelle sue strutture creazionali, permettetemi questo termine, questa terra evidentemente sarà la vostra radice, e voi vivrete qui, coltiverete, non aspetterete più la manna dal cielo, coltiverete, la manna vi verrà dalla terra. Però voi dovete vivere questa terra con la stessa soggettività di chi accoglie di vivere dall'altro con cui avete vissuto il dono della manna. E se no, perché fare una lunga marcia attraverso il deserto? Se non per imparare, Deuteronomio 8, alla soglia, nel passaggio tra deserto e terra promessa, Mosè, è un discorso che gli viene messo in bocca, certamente, ma questo è importante, Mosè dice, guardate, quello che voi avete imparato nella lunga fatica nel deserto è, ecco, di vivere dell'altro, che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, che non vuole che vive di pane e di meditazione della parola, ma che vive di pane accogliendolo dalla promessa. Per cui la sostanza di quel pane, appunto, del suo essere dato giorno dopo giorno, è, anche se poi nelle modalità, interne della produzione del pane sono uguali a quelle degli altri. Allora, ecco, qui ho tentato una definizione, ma così prendetela, della politica secondo l'Esodo. L'Esodo è l'opera richiama, ecco, la terminologia ebraica, e poi è più vicina a noi, l'ebreo Levinas. E è l'opera, sì, come oggettivazione della dilezione accolta e agita. Cioè quella dilezione accolta e portata, se vogliamo, all'altro. Ho messo tra parentesi i vari livelli di complessità, e uno può dire, bravo, ma il problema della politica è proprio nel come articolare i livelli di complessità, e quindi tu lo metti tra parentesi. Mi pare di no, mi pare che l'ha messo tra parentesi, vuol dire che poi i problemi di come articolare, ecco, il momento più strettamente o modernamente politico, col momento del convivere, nel senso più ampio, quindi il momento della politica come stare, fare polis, e il momento della politica come amministrare. No? Ecco, l'articolazione tra questi due momenti non costituisce, può costituire oggetto di teologia politica intesa come teologia che riflette sul politico, accezione B. Accezione B. Cioè una teologia settoriale, va bene, che ha la sua legittimità. Ma c'è anteriormente una teologia politica, ecco, ed è la circuminsessione tra teologale e politico, cioè e sociale, se volete, la circuminsessione che, per cui non si dà sociale senza teologale, cioè senza dilezione. D'altra parte però non si dà teologale senza sociale, perché la dilezione non è un fatto di coscienza, né è un fatto di, come dire, di mimetismo tra me, per cui, no, tra me e Dio, di recita tra me e Dio, ma la dilezione accolta da Dio è si identifica con il servizio che porto all'altro. Allora la politica è essenzialmente teologale, non teologica, ma essenzialmente teologale, ma il teologale è essenzialmente politico. Dico questo perché è un po' un pallino, io ripeto spesso che credo che il compito, uno dei compiti principali della teologia oggi sia coniugare Bultmann e i teologi della liberazione, e mentre mi danno poca fiducia le teologie politiche alla Metz e soprattutto alla Moltmann, cioè quelle teologie politiche che battono tutto sulla sul rapporto Dio e momenti oggettivi, e Dio e oggettivazioni, spirito oggettivo. A me pare che ciò che dà la qualità teologale del politico è il suo passare attraverso la dilezione accolta, fede e agita, cioè l'essere appunto il prodotto, la configurazione, la configurazione ai vari livelli di complessità della fede operante nell'amore. Galati 5, 14 o dintorni. Bene, oggi ho chiamato poi integrazione, mi dà ancora 10. Ho chiamato integrazione, avevo potuto chiamarli corollari o applicazioni, non importa, ecco alcune considerazioni così, che in qualche modo ecco, derivano e che possono essere formulate a partire dalle cose dette. La prima riguarda ecco, quello a cui già accennavo, e cioè la lettura che io ho fatto dell'esodo, soprattutto della elezione, è una possibile lettura che però deve allora collocare il racconto dell'esodo dentro il più grande racconto di tutto l'Antico Testamento e poi del Nuovo. Cogliendo allora la Bibbia come testo unitario, la Bibbia antica e il Nuovo Testamento come testo unitario, ma credo che già basti l'Antico Testamento, sebbene di fronte al solo Antico Testamento forse la scelta resta un po' pencolante, no? Ma non vorrei dire l'ultima parola su questo punto. Comunque certo bisogna andare oltre una considerazione del racconto dell'Esodo come totalità compiuta, certo. E allora l'elezione che Dio fa di Israele appare non più come elezione solo di Israele, ma l'elezione che fa da segno, da segnalazione, da indicazione, da testimonianza della elezione che Dio fa di tutta intera l'umanità. Della elezione, dico, sia nel primo momento, più propriamente della dilezione, per cui Dio ama ogni uomo e tu devi amare ogni uomo, per dire Matteo 5, 43, 48, no? Fa piovere il sole sui giusti, sugli ingiusti, sui buoni, sui cattivi, e allora lo slargamento del confine, slargamento universale, per cui propriamente non ha più confini, del motivo della dilezione al di là del perimetro del popolo eletto. I diletti sono tutti. E qui, ho accennato solo tra parentesi, non lascio davvero stare, il problema del nemico. Il problema del nemico che invece è fortissimo nell'Esodo, nel Deuteronomio, presi come totalità compiuta. E con questo i biblisti devono fare i conti. Se si prende come totalità compiuta il racconto dell'Esodo, allora il Dio di Israele è il Dio che esclude, anzi che ordina a Israele di negare l'altro, quell'altro che è il nemico. Ma allora c'è una contraddizione interna. Al testo, una contraddizione interna a un testo che vuole essere l'autorivelazione, il sedimentarsi dell'autorivelazione della dilezione. Comunque è un problema, mi pare, molto vivo, questo del Dio violento, soprattutto del Deuteronomio, cioè dentro la narrazione dell'Esodo. Allora, nella lettura che ne faccio, ecco, l'eletto, il popolo eletto, va inteso dunque in maniera non più che lui e non altri, ma che nella sua elezione si dice la elezione di tutta l'umanità e quindi anzitutto la dilezione che Dio porta a ogni uomo attraverso i suoi eletti. Secondo, c'è anche non solo quindi tutti gli uomini sono i diletti, ma anche che tutti gli uomini sono eletti a diventare soggetto di dilezione. E qui c'è la dimensione di laicità, di non confessionalità nell'amore. Se volete un testo che fa da cerniera tra Antico e Nuovo Testamento, Proprio su questi punti, su questi due punti, prendete Luca 10, la parabola del buon, la cosiddetta parabola del buon samaritano e esordio, no? Dal dottore che dice cosa devo fare per avere la vita eterna, fino a tutta la parabola, fa questo. Le differenze, ecco, questo sarebbe stato il titolo, il primo titolo, quello che avevo annunciato, questo comparso poi sul foglio, ecco. E che cos'è il totalitarismo della verità? Ma direi che è anche qui, di nuovo, da una parte, guardare alla totalità come il destinatario della verità. Allora, il luogo in cui si fa la verità è la totalità cosmica e poi la totalità sociale. E allora coloro che alterano quella verità, che è poi l'ordine sociale, vengono espulsi. E poi il totalitarismo della verità anche sul piano del soggetto, cioè che c'è una localizzazione dei detentori della verità, che poi gira rigira finiscono sempre anche per essere uno, no? Perché c'è quel processo piramidale per cui dal sensus fidelium di linea di diritto, però di fatto, ecco, c'è solo il pastore e poi il pastore supremo, così come dall'altra parte dalla proletariato c'è però solo il proletariato come classe per sé, non come classe in sé, perché i proletari molte volte sono teste di cavolo come tutti, che scoperta, no? Allora, come tutti noi, certo, no? Allora ci vuole il partito, che è la coscienza della classe. E allora ci vuole fino al segretario generale, così, no? Abbiamo lo stesso processo di piramidizzazione che mi pare sia proprio quello che porta inevitabilmente all'uno che è tutti, anche se il punto di partenza era stato di tutti, a differenza che nelle concezioni mitiche, comunque premoderne. Dall'altra parte, beh, l'alternativa invece che ognuno è mondo a sé, mondo a sé. Ora, qui ho scritto, capisco, così sono termini, no? Non avendo la possibilità di sviluppare questo motivo, dico, ma tiratelo fuori voi dalle cose dette, no? In fondo si potrebbe dire, ecco, perché la verità biblica è essenzialmente pragmatica, ma non per un cedimento ai pragmatismi contro i diritti della verità, ma perché la verità biblica è semplicemente la dilezione, punto e basta. No, perché nella, ecco, la novità assoluta del racconto originario in cui si è costituito l'Israele e poi il cristianesimo, il racconto dell'Esodo, è la dilezione, non c'è altra verità che la dilezione, o tutte le altre figure della verità sono soltanto appunto determinazioni di cosa dire. Così mi sembrerebbe una certa importanza vedere, per carità, non cancelliamo il limite, è un limite anche di base, no? Ed è cioè dove ognuno, ecco, il soggetto, l'individuo moderno è emerso come soggetto di diritti, come libertà, ecco, nei confronti di, come libertà che, di fronte alla quale la libertà altrui è il confine da rispettare. Formulazione, non ricordo se è il numero 2 o il numero 3 della dichiarazione dei diritti dell'uomo. Allora, io sono prima di tutto libertà, di far che cosa? Di fare tutto, eccetto ciò che lede la libertà altrui. No. Ma la definizione, l'altro è solo colui che può essere leso, ma la definizione è impositivo, è questa autoidentità, non più della parte con il tutto, ma dell'io con il se stesso. E mentre dall'altra parte mi sembra c'è quella identificazione che chiamo, ecco, allora, il diritto del povero, per sottolineare che non è a livello della sua coscienza che si dà, che è diritto o la dignità, o se volete la persona, si potrebbe anche dire, ma sì, lasciamo stare, ha diritto, la dignità, il valore assoluto, no? Del popolo, è proprio, fa tutt'uno con il non avere un'identificazione da sé. Il punto di partenza resta sempre vero. Israele resta il diletto e l'eletto, ma proprio in quanto colui che era schiavo. E il colui che era schiavo resta dentro nel diletto e nell'eletto come un elemento senza il quale noi allora ci costituiamo come autodiletti e autoeletti. Autodiletti il soggetto di diritto, autoeletti addirittura i messianismi, la totalizzazione della verità. Lascio stare l'ultimo aspetto perché è troppo complicato. Bene, basta. Ringraziamo Armido Rizzi perché ci ha restituito i cosiddetti concetti teologici esodali che erano usciti in Esodo e sono ritornati in patria più ricchi di contenuto per far ripensare pagine bibliche. La sua meditazione non è solo meditazione, ha una valenza anche metafisica. Io ho pensato, anche mentre parlava, al grande problema dell'accusa, già che mi riferisco a Giannoni, fatta alla teologia del mistero trinitario, in quanto sembra che sia una teologia che non dimostri una particolare capacità di far ripensare i problemi politici. E si viene oggi, anche a livello ecumenico, ad accusare la formulazione dogmatica del Concilio di Nicea di Costantinopoli come una caduta nell'ellenismo. Ricordo che il professor Leser difende invece la capacità che ha avuto il cristianesimo di entrare nella cultura ellenistica, dell'ellenismo, ma di introdurre un cambiamento radicale. Che però rimane utopico, cioè ha introdotto il mistero trinitario dentro la interpretazione della Chiesa, dentro quindi anche la cultura filosofica ellenistica, la metafisica dell'amore. In realtà io la vedo poco, questa metafisica dell'amore. I trascendentali sono giocati fra di loro l'essere, l'uno, il vero, il buono, il bello. Ma di fatto è stato privilegiato sempre l'essere, forse a livello politico ecclesiastico l'unum, poi un po' tutti il verum con potere discriminante, con Baltasar il bello, ma sono pochi quelli che hanno avuto il coraggio, non so perché, forse perché sembra una caduta nel sentimentalismo, nel femminismo ante litteram. La paura di identificare il metafisico con il bon, soprattutto con l'amore. È un tentativo, quello di Rizzi insieme con pochi altri, di valorizzare una metafisica fondativa, ma una metafisica dell'amore. In questo senso, dunque, io particolarmente li sono riconoscente. E purtroppo il tempo è corso avanti, per cui non abbiamo molto, perché vorremmo finire le 12:30, perché qui c'è una trattoria ben attrezzata, che vuole fornirci veramente un pranzo secolarizzato, non monastico. Una vera manna nel deserto, sì, di queste nostre. Non all'insegna della scarsità che alimenta il politico, ma dell'abbondanza che lo neutralizza, ecco. Allora, ecco, io direi che dobbiamo anche contentarci di quel poco del dibattito che riusciremo a fare intorno alla relazione di Rizzi, che unisce insieme la meditazione con la metafisica. Però purtroppo avrei anche un debito. Io, prima Don Dianis ha sollevato una domanda anche per il professor Totaro. Vorrei che Perone. E allora, se volessi intervenire prima di se no altrimenti non riusciamo ad avere un altro spazio, casomai il pomeriggio riprenderemo alcune tematiche che sono emerse anche questa mattina. Se riuscisse a rispondere in breve alla provocazione di Undianic. Sì, lo faccio molto in breve. La domanda era se la considerazione che io proponevo dell'etica come luogo massimo non finisse però, o comunque come si ponesse in relazione con un prevalere di una concezione formale dell'etica nella cultura contemporanea. Allora, è l'etica formale o contenutistica? Questa mi pare fosse la domanda. Ecco, io penso che bisogna rispondere decisamente che l'etica non è formale, che essa ha a che vedere con dei contenuti. Mi ritengo anzi che nel corso della storia del pensiero la enfatizzazione dell'etica come formale, Kant, tu facevi anche il riferimento, si procede di pari passo con una concezione della ragione come formale, cioè le due cose stanno insieme. L'etica è formale, ma perché il concetto di ragione è un concetto di ragione formale, fino agli estremi poi dei tempi contemporanei di una ragione puramente strumentale che porta la formalizzazione al livello massimo, perché non è più la formalizzazione dell'universalità come era in Kant, ma è una formalizzazione dei giochi, si potrebbe dire. Ora, io credo che, e devo ripetere la parola che nel corso del dibattito ieri già avevo introdotto, credo che una ragione ermeneutica sia fuori da queste problematiche, cioè le abbia superate. Nel senso che si ponga immediatamente con un altro concetto di ragione che non è una ragione formale. La ragione ermeneutica è sempre piena, ed è piena non perché essa ha in sé i propri contenuti, come era l'opposto della ragione formale, ciò a cui la ragione formale appunto reagiva, ma al contrario perché la ragione ermeneutica è anzitutto una ragione seconda, cioè viene dopo. E si trova di fronte a un reale che la precede e di cui essa si sforza di essere interpretazione e anche poi dopo fondazione. Allora, io penso fra l'altro che in ultima istanza la ragione formale non esista, sebbene sia stata teorizzata. Esiste certamente la ragione astratta, e la ragione astratta è un compito a cui un filosofo non può mai rinunciare. Quindi quando io dico ragione ermeneutica e ragione piena, non voglio dire che poi non vi siano dei momenti astratti anche della ragione ermeneutica, dunque dei momenti anche argomentativi e fondativi. Però nella sua concezione la ragione ermeneutica è seconda, viene dopo, si trova un oggetto, si trova, per usare la terminologia di ieri, dei significati che stanno in quanto ci sono per sé. Io non credo che non ci siano fatti etici. Fatti etici li incontriamo, si parlava dell'ospitalità, si parlava di certe scelte ecologiche. Bene, tutti questi sono dei contenuti. Il compito dell'etica come riflessione su questi significati è quella di fare violenza, secondo me c'è anche una dimensione di violenza, di far violenza a questi significati vedendo se essi sono capaci di costituirsi come segni, come sensi, cioè come hanno una capacità globalizzante. Qui interviene anche un elemento astratto della ragione nel far questo, è la capacità di mettere alla misura dell'universale anche il significato nel suo specifico. Quindi l'etica è, mi sembra, parte da dei contenuti, quindi è sempre contenutistica, ma nel suo momento di universalizzazione forza questi contenuti al di là della particolarità. Questo è il lavoro, mi pare, dell'ermeneutica. In questo senso, e con ciò chiudo, l'elemento politico fa anche, a suo modo, in un altro livello, ma fa anche un gioco di questo genere, perché si parlava oggi del momento liberale, che certo c'è sempre, sono le regole del gioco, ma in questo gioco chi gioca quel gioco non obbedisce solo alle regole, perché ritiene, nel farsi approvare e darsi l'investitura, fa riferimento a degli elementi extra gioco, perché cerca un consenso. E come argomenta questo consenso? Non dicendo che lui segue le regole del gioco, ma dicendo che fa riferimento a elementi universalizzabili i quali valgono e che possono, a cui gli altri possono consentire. Quindi c'è sempre questa dialettica, questa tensione tra l'elemento formale, che è poi l'universalizzabilità, e l'elemento puntuale specifico. Grazie. Allora, ma sì, segnalo, poi c'è Tanoto Camerro. Vedete che sto perdendo fame di metafisica. Allora, professor Savignano. Farò due domande molto semplici per ragione di tempo. Io l'anno scorso ho parlato di una dimensione teologale dell'uomo, e perciò chiederei a lei se potesse essere più chiaro, perché se non ho capito male lei pone un nesso tra teologale e politico, e mi piacerebbe se potesse chiarire questo punto, perché io credo ci sia una dimensione teologale dell'uomo, ma tra il teologale e il politico vedo qualche problema, se c'è un nesso univoco. Questa è la domanda che facevo a lei. E la seconda domanda invece la poneva al relatore che l'ha preceduto, e cioè che effettivamente c'è un problema al fondo di tutta la sua relazione, per il resto molto interessante, quella che io chiamo nel mondo contemporaneo, io naturalmente, quello che altri chiamano, che, con una frase a mio avviso molto importante, cioè la crisi di legittimità del potere. Numerose volte nel discorso del relatore precedente è venuto fuori che Pio XII aveva il problema della legittimità a livello delle dittature, eccetera. Ebbene, il problema del liberalismo, che naturalmente è molto diverso dalla democrazia, non posso argomentare su questo punto, però è molto importante, vero, distinguere il liberalismo dalla democrazia. Non sono la stessa cosa, naturalmente. E c'è il problema delle regole del gioco e del problema del potere. Io credo che il mondo contemporaneo, non quello moderno, debba discutere, dopo Kelsen, che ha un'idea erronea sulla legittimità del potere, perché si basa sulla forza, è vero, deve discutere il problema della legittimità del potere. Questo è un problema molto importante, e non tanto solo a livello delle dittature. E secondo, io credo che questo liberalismo democratico, ripeto, sono diversi liberalismo e democrazia, non ho il tempo per argomentare su questo, ma c'è tutta una tradizione su questo punto. E credo che, giustamente, molti hanno detto, ma come mai non c'è il marxismo? Io direi, come mai non c'è il socialismo? Perché non il marxismo, sono diversi, naturalmente. Che perché molti pensatori, io per esempio mi occupo di Ortega, il quale diceva che questa dolce marmellata del liberalesimo è molto interessante, però è una marmellata intellettuale, perché dovrebbe essere coniugato non col marxismo, ormai in crisi, ma col socialismo. E questo è il vero problema, non tanto il marxismo. Il socialismo, il liberalismo sociale o il socialismo liberale, non sto facendo la politica, sia ben chiaro, filosofia politica sto facendo, non i partiti, mi raccomando, per carità. Ecco, questo potrebbe, accanto al problema della legittimazione, impostare la questione per il mondo contemporaneo. Ecco, vorrei sapere il parere del professor Acerbi su questo punto. Grazie. Sì, io darò la parola al professor Acerbi, a mero viene fuori un pomeriggio, penso, cioè siccome il pomeriggio dopo Prodi ci sarà un dibattito generale su tutto, anche perché siamo a corto di tempo. Allora Don Gamero. Ascoltando Rizzi mi veniva in mente la conclusione di Totaro, e allora vorrei chiedere ad entrambi: questa dilezione accolta e ridonata che entra nella dinamica della storia dell'uomo, la suggestione di Rizzi, e quell'utopico che fermenta nuovi rapporti dal basso, la suggestione di Totaro, hanno qualcosa di comune? Oppure, per rifare la domanda in altro modo, questa dilezione accolta e ridonata può essere un contenuto di quella utopia mai realizzata poi in fondo? Seconda domanda dentro la domanda: il rapporto tra questo accogliere, ridare, ma mai realizzare pienamente, suppongo anche nella storia del popolo ebreo, e quell'utopia che fermenta, in termini riflessi, può essere legato alla politica e quindi alla storia ancora con un concetto di analogia? Dinamica, ovviamente, non statica. C'è una causalità lì dentro che lega qualcosa? Grazie. Bonato, poi basta, questa volta ti diamo 5 minuti. La relazione di Rizzi mi ha portato molte suggestioni, e vorrei proporre così alla discussione una categoria secondo la quale mi sembra si potrebbe, ecco, impostare e forse anche leggere in chiave di lettura così mia personale il discorso che lei. Cioè vorrei accennare, anche forse ricordandomi un po' a Mancini, alla sua assenza, di un diritto di resistenza, proprio in fondo come una chiave interpretativa, ecco, di una non riducibilità del teologico. E ecco, in fondo questo diritto di resistenza che è un filone caldo probabilmente di tutta una storia che potrebbe essere letto proprio accanto a questo invece regolarismo, non è in fondo la garanzia e l'esibizione di un'alterità mai riducibile comunque che vivacizza l'istituzione, fermenta l'istituzione, ma è sempre un qualcosa che va superato. E quindi vorrei dire, la rivendicazione in fondo che oggi fanno masse di oppressi o singole persone riguardo a temi civili, a temi etici più disparati, non è forse al di là dell'interesse del singolo o di quel gruppo sociale o di quella socialità? L'attestazione che vi è comunque strutturalmente un'alterità, una differenza, un dato che è il volto oscuro dell'uomo, il volto oscuro di Dio, il lato oscuro delle cose, della materia, che comunque non è mai riducibile ad un dinamismo istituzionale. Grazie. Mi permetto un decisionismo, allora io finirei qui il dibattito, anche perché preferirei adesso che fossimo puntuali, do 5 minuti a lui andare a pranzo, il 12 qui a un ristorante vicino, Vecchia Trento, e tutti sono invitati, vero? Perché c'è un banchetto nuziale, proprio tutti, anche gli oppressi, quelli che non hanno potuto essere i protagonisti, eccetera. In modo che io propongo, siamo puntuali, cioè facciamo finta di cominciare alle 3:30, che non diventi come ieri, dalle 3:30 a 4:20, 4:10. Sì, ma appunto. Quindi facciamo finta che non sia le 3, ma sia le 2:30. Cioè diamoci un appuntamento per cui ci muoviamo dal ristorante ben pasciuti, alle 2:30, alle 2:15 siamo in via. E finalmente arriveremo all'Escaton qui, al Regno, alle 3. Allora sì, avremo tempo di ascoltare una relazione soda del professor Prodi e poi di un dibattito feroce, recuperando il diritto del conflitto, ecco, non della pace. Allora ti do 5 minuti, se permetti, sono cattivo, non più di 5 minuti. Ma dopo riprenderai qualche io cosa. Io non... sono contento che tu ti senta invogliato dalla metafisica dell'amore. Dalle cose che hai detto ho però come l'impressione che non diciamo esattamente la stessa cosa, no? Perché di fatto hai parlato dei trascendentali, no? E no, per me non è l'amore come trascendentale, no. Quel bene e quell'amore, ripeto, le parole non è che poi le parole, no? Bene, amore, comunque lo si chiami, dilezione, giustizia, non me ne... Ma l'essenziale è il fatto dell'alterità. La metafisica dei trascendentali è nata sull'identità, no? Su un pensiero dell'identità, anzi è l'espressione suprema del pensiero dell'identità, e non ci sta dentro. Ecco. Io credo che la Bibbia non ha formulato, ma la Bibbia ha prodotto un orizzonte di senso dell'alterità che va pensato, o dentro il quale si deve pensare. E non sono affatto convinto che si può pensare solo dentro il logos greco. Balle. Potrei prendere in mano lì dove la pagina, ricordo benissimo, l'ho studiata, l'ho riflettuta, e sbaglia, cioè proprio c'è uno sgarro logico o fenomenologico, non so, dove Derrida dice a Levinas, gira, l'altro in fondo è l'altro io, dunque la categoria resta quella dell'io, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, evidentemente non ha capito, mi sembra, no? Non ha capito, per carità ci capita a tutti, no? Ma non è vero che l'altro è l'altro io e che quindi l'idea dell'altro è mediata dall'idea dell'io, perché appunto questo vuol dire passare attraverso l'idea. Invece il comandamento dell'amore o la giustizia non passa attraverso l'idea che io mi faccio dell'altro. Allora, no, qui non sarebbe una cosa. Quanto all'identità tra teologale e politico, anche qui teologale può voler dire forse tante cose, così come io lo intendo e come ho cercato di dire, e quindi il teologale biblico, no, si identifica col politico in quel nodo che è ama l'altro non tanto come te stesso, no? Ma ama l'altro come Dio ama te, ma è un come perché. Qui difatti ho scritto, poi non l'ho ripreso nella, no, il comandamento dell'amore come ripetizione della dilezione divina, cioè l'apax una volta per tutte di quel che Dio ha fatto nell'esodo, poi sulla croce di Gesù, no? Ecco, viene ripetuto, che vuol dire, cioè, che tra virgolette, no? Cioè che la sostanza di quell'amore diventa la sostanza del tuo atto. Allora lavoretto io lo guardo, proprio perché c'è solo quello, ecco, no? D'altra parte quest'amore è prendere la terra, no? Quest'amore si trascrive in opere, ecco. Allora direi la politica è questo, il momento dell'opera. In questo io vedo una identità, ecco, o se vogliamo un'identità, no? Il politico è il momento dell'opera, il cui atto posizionale è il teologale. Questo sarebbe importante. Ma a Gamerlo volevo dire, per quanto sta in me, sì, io sono, sentivo ieri sera una consonanza con quanto diceva Totaro nell'ultima parte. Vorrei ribadire, se volete, ancora un altro schemino che ripete però due già tirati fuori lì, nel politico moderno, andiamo da Hobbes, ma quello sul linea di Hobbes, allora è il potere che tiene assieme individui che da soli sarebbero irrelati o si metterebbero in un rapporto reciproco solo di guerra. Soltanto il potere, allora il politico è costitutivo del sociale, anche è costitutivo dello stare assieme. Dall'altra parte invece il politico classico, mitico e classico, era che l'uomo sta assieme perché è naturaliter associato. Mi pare che anche Marx sia su questa linea. Per cui l'uomo nella società comunista non avrà più bisogno della politica, perché avrà ritrovato, della politica nel senso moderno, no? Perché avrà ritrovato la socialitas naturale dell'uomo primitivo, no? Diciamo, ecco, naturalmente però con in più tutte le mediazioni rese possibili dalla ricchezza, ecco, dal superamento della. A me pare che invece che quello che viene proposto dall'Esodo, in generale dal racconto biblico, è che a tenere insieme gli uomini, indipendentemente dal fatto che siano naturaliter sociali o naturaliter lupi, che non riguarda la Bibbia, perché la Bibbia non è né ottimista né pessimista su questo piano. Pone il suo discorso, il suo kerygma, dicendo ama il prossimo tuo, e l'ama in quanto imperativo, ma appunto è un imperativo che non è solo scritto sulle regole, che è la nuova soggettività, si pone al di là della originaria datità naturale o anche configurazione naturale dell'uomo. E quindi non ha interesse la Bibbia a dire che l'uomo è buono, naturale, come non ha interesse a dire che è cattivo. Naturale, te, vabbè, lo dirà il peccato originale, eccetera, eccetera, no, ma non quindi a stare con Marx, non so, o con Fromm, o a stare con Lorenzen o con altri o con Hobbes, non ha nessun interesse, no? E dice comunque sia, ecco, l'etica e la politica non sono costituiti da quella eventuale, se c'è, socialità naturale. Per cui al limite dico, se anche quella funzionasse, non è questa la vocazione della societas umana, che è quella di che è l'accadimento della dilezione reciproca che si fa a servizi. C'era Bonato sul diritto di resistenza, ma sull'altro e l'alterità io vorrei qualche precisazione in più, perché anche alterità è una parola che si può usare in molti sensi, perché da tutti legittimi, no? Nessuno credo ha il diritto di rivendicare a sé l'uso legittimo di un termine come altro, che è tra i più comuni del linguaggio. Vuol dire comunque io non intendo la semplice alterità tra del fatto che resiste al movimento, alla produzione, eccetera, ma la identità invece di quel fatto peculiare che è l'altro nella sua povertà, proprio perché quel fatto peculiare è il luogo in cui splende il diritto, nel senso del il diritto del povero, perché è oggetto dell'amore di Dio. Il tutto questo, certo, è ritraducibile in termini dove Dio non entri, ma essendo io teologo cristiano, dico tutto questo nei termini della, cioè conservando, sia pure attraverso un tentativo di concettualizzazione, però conservando il referente Dio. Questo mi pare per correttezza. Bene. Allora, rinnovo il grazie, rinnovo un saluto, buon appetito, arrivederci presto.